giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'occupazione soprattutto nel manifatturiero, perde meno il turismo. Secondo Unioncamere, nell'ultimo trimestre dell'anno la regione perderà 5.000 posti di lavoro. Il Partito Democratico verso il nuovo segretario regionale sarà eletto il 29 ottobre dall'assemblea che si è riunita ieri pomeriggio. Il congresso si terrà solo dopo le elezioni. Il lavoro del numero unico di emergenza, che smista una media di 1.700 chiamate al giorno, illustrato nell'open day organizzato nella centrale di Palmanova. Per la settimana nazionale della protezione civile, Gorizia ospita Resi Fest, il festival della resilienza. Fino a stasera esercitazioni, dibattiti e approfondimenti. Torna in piazza il popolo no vax a Trieste, un corteo nelle vie del centro contro il Green Pass ma anche contro la guerra e lo SPID, il sistema di identità digitale. E ieri pomeriggio a Udine, manifestazione per solidarizzare con le donne iraniane che da giorni protestano contro la teocrazia e il velo divenuto simbolo della loro oppressione. Oggi una nuova sfida importante per l'Udinese, giocherà a Roma contro la Lazio. Sottile ha messo a fuoco i punti deboli del biancocelesti e punta sul buon momento della sua squadra. Basket in Serie A1, l'Allianz battuta in casa dalla Reyer per 78-95. In A2 la Gesteco ha vinto in casa contro il Ravenna 80-70. E pallanuoto a Barcellona, doppia vittoria per Trieste che si guadagna il pass per il secondo turno di Eurocup. I ragazzi di Bettini hanno battuto prima i turchi, poi gli slovacchi. Le 8:31, buongiorno e buona domenica da Alessandra Zigaina e Nada Cioc. Vediamo subito la situazione del meteo, c'è nuvolosità variabile su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 8 del mattino. Trieste 15 gradi, il mare è calmo con una temperatura di 21 gradi. Pordenone 14,5, Udine Gorizia 11, Tolmezzo 11, Forni di Sopra 8, Sappada 6,5, Piancavallo e Tarvisio 5,5. Monte Lussari e Monte Zoncolan 10, Grado Lignano 16, con una temperatura del mare di 20 gradi. Su pianura e costa al mattino cielo da variabile a nuvoloso con possibili foschie locali, mentre dal pomeriggio avremo cielo poco nuvoloso anche sereno. Sui monti nuvolosità variabile, prevalenza di sole nel Tarvisiano, dalla sera possibile qualche nebbia in pianura e nelle valli. Crisi energetica, inflazione e instabilità internazionale pesano sull'occupazione. In questo ultimo trimestre dell'anno i posti di lavoro saranno 5.000 in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. A soffrire di più il settore manufatturiero, mentre resiste il turismo. Niente di buono sul fronte occupazionale. Per il mese di ottobre si prevedono in Friuli Venezia Giulia quasi 10.000 assunzioni in meno, un calo di oltre 1.000 unità rispetto all'anno scorso, che peggiora poi se si considera il trimestre che va da ottobre a dicembre. Qui gli assunti saranno 25.000, mentre nel 2021 erano più di 30.000. Lo rivela la ricerca di Unioncamere ANPAL, che conferma la tendenza anche a livello nazionale. In tutta Italia le nuove assunzioni per il mese di ottobre saranno 447.000, un calo del 5,5% rispetto all'anno scorso, mentre per il trimestre la flessione supererà il 10%. Il rallentamento era atteso, colpa della crisi energetica, dell'inflazione e delle difficoltà geopolitiche globali. A soffrire di più sono infatti le assunzioni nel manifatturiero, giù del 28% per ottobre, mentre il turismo, unica eccezione, cresce. Resta centrale il problema del reperimento del personale. Le aziende offrono posti, anche se in calo, ma non trovano comunque lavoratori. Vale per quasi la metà delle assunzioni previste per ottobre. Per gli operai specializzati il dato sale fino al 60%. Le cause sono numerose, vanno dal calo demografico, nascono sempre meno persone, ai salari, giudicati poco attrattivi, ma è anche un problema di competenze. I mestieri non vengono più insegnati ed è sempre più difficile restare al passo con le nuove tecnologie. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il nuovo segretario regionale del Partito Democratico sarà eletto il prossimo 29 ottobre, quando sarà riconvocata l'assemblea regionale del PD che ieri pomeriggio si è riunita a Palmanova. Stando alle indicazioni arrivate da Roma, il congresso si terrà solo dopo le elezioni in tutte le regioni che vanno al voto. Tempi brevi per il nuovo segretario regionale del PD. Per statuto del Nazareno, il congresso si potrà celebrare solo dopo le elezioni regionali di primavera. Nel frattempo l'assemblea regionale verrà riconvocata per eleggere un segretario fino all'assise congressuale. Questa in sostanza è la principale novità emersa dal parlamentino regionale del PD riunito ieri a Palmanova. Per il successore del dimissionario Sciaurli si stanno sondando diverse personalità all'interno del partito, anche se si tratterà di un incarico difficile e complesso dopo il deludente risultato delle elezioni politiche. Più che sulla persona si punterà a ridisegnare un progetto politico al passo con i tempi, capace di coinvolgere la società civile in tutte le sue componenti. Per le elezioni regionali di primavera è emersa la volontà di ampliare il più possibile la coalizione di centrosinistra guardando al terzo polo di Calenda e Renzi e al Movimento 5 Stelle. Troppo presto invece per indicare il candidato alla presidenza alternativa Fedriga, anche se pare che le manovre siano già iniziate nei corridoi di Piazza Oberdan. Palmanova, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: un'automobile con i fari accesi è stata abbandonata all'alba sul passaggio a livello di via dei Prati a Udine, sulla linea ferroviaria che collega Udine a Gorizia. L'automobile aveva i fari accesi, il treno passeggeri non ha fatto in tempo a frenare e ha travolto la vettura. Per i passeggeri del treno non ci sono state conseguenze. Sul posto, vigili del fuoco e polizia ferroviaria che cercano di capire a chi appartenesse l'auto e perché l'abbia abbandonata proprio sui binari. L'ipotesi più probabile è quella di un'avaria. Sono circa 1.700 le chiamate che arrivano ogni giorno agli operatori del 112, con un aumento nei fine settimana. Ieri a Palmanova, nell'open day organizzato nella sede della Protezione Civile, il punto su come lavora e quali sono gli interventi del numero unico di emergenza che opera sull'intera regione. Il giorno con più chiamate di emergenza è il sabato, soprattutto la sera e in generale nel fine settimana. Alla centrale di risposta del numero unico di emergenza 112 di Palmanova si lavora giorno e notte per gestire le richieste di soccorso da tutta la regione. Qui gli operatori, 6 o 7 nei turni diurni, 4 in quelli notturni, rispondono a circa 1.700 telefonate al giorno, che vengono smistate a carabinieri, polizia, vigili del fuoco, ambulanza. Massimiliano Danieletto, operatore centrale 112. L'operatore ha il compito di filtrare le chiamate che non sono di emergenza, richieste di informazioni o chiamate partite per errore, e localizzare nel più breve tempo possibile, possibilmente meno di un minuto, il luogo dell'evento, capire la natura dell'evento e individuare la centrale di secondo livello a cui passare la chiamata, grazie all'utilizzo della tecnologia che abbiamo a disposizione. Il 45% delle chiamate ricevute dalla centrale sono improprie, cioè non di emergenza, ma fatte per avere informazioni o per errore. Delle altre, circa 3/4 sono richieste di soccorso medico, che quindi vengono poi passate alla struttura operativa per l'emergenza sanitaria regionale. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. ResiFest, il festival della resilienza sotto l'egida della Comunità Europea, vede protagonista in questo fine settimana la città di Gorizia, che fino a stasera sarà teatro di esercitazioni, dibattiti e approfondimenti nell'ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Con un'esercitazione in ambiente contaminato e una ricerca di persone scomparse si conclude a Gorizia il progetto europeo triennale Resiloc, dedicato allo sviluppo della resilienza delle comunità locali attraverso il potenziamento delle metodologie di intervento di sicurezza territoriale. 4 le città campione: Gorizia, Catania, West Achaia in Grecia e Tetovo in Bulgaria. Il progetto coinvolge il comune di Gorizia con la Protezione Civile e l'Istituto di Sociologia Internazionale ISIG, partner fondamentali nelle esercitazioni, il soccorso sanitario regionale e i vigili del fuoco, che hanno coordinato le operazioni sul campo con il reparto di intervento nucleare, batteriologico, chimico e radiologico. Paola Lorenzoni, responsabile del progetto Resiloc per il comune di Gorizia. Il progetto Resiloc ha portato alla creazione della Local Resilience Team, ovvero una squadra, un gruppo informale per la resilienza di comunità, che mette in collegamento le istituzioni del territorio con le associazioni del terzo settore di Gorizia per costruire la resilienza di comunità. Una giuria di cittadini contribuirà a definire le strategie di resilienza per il comune di Gorizia. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR, Friuli, Venezia Giulia. Il popolo Novax ieri è tornato in piazza Trieste, oggetto della protesta non solo il Green Pass, peraltro ormai obbligatorio in pochissimi posti, ma anche la guerra e, a sorpresa, lo Speed. Il popolo del No torna a sfilare a Trieste, da Largo Riborgo a Piazza Goldoni, attraverso Corso Italia, via Carducci, Foro Ulpiano, via Roma e via Mazzini. Almeno 500 persone, secondo la questura, si sono ritrovate per chiedere lo stop alla guerra in Ucraina. A organizzare il corteo e il coordinamento No Green Pass, protagonista un anno fa delle proteste in porto contro la certificazione verde, e anche questa volta sono state tante le bandiere e i cori contro i vaccini e il Green Pass, peraltro a oggi richiesto solo per accedere a strutture sanitarie e case di riposo. Molte meno le bandiere della pace, accompagnate da striscioni e slogan contro la NATO, contro le sanzioni alla Russia e contro lo SPID, l'identità digitale che permette di dialogare con la pubblica amministrazione. Citato spesso il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, detenuto in Gran Bretagna, additato come esempio di libero pensatore. Il corteo si è svolto senza incidenti, solo qualche disagio per il traffico bloccato. Trieste, Lorenzo Gherlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Manifestazione a Udine ieri pomeriggio per solidarizzare con le donne iraniane che da giorni protestano contro la teocrazia e contro il velo che sono costrette a portare, simbolo della loro oppressione. Anche Udine scende in piazza per un gesto di solidarietà alle donne e al popolo iraniano. Oltre 200 persone di diverse associazioni hanno affollato Piazza 20 Settembre ripetendo lo slogan Donna, Vita, Libertà. Tanti gli interventi delle rappresentanti delle varie associazioni che hanno ricordato Mahsa Amiri, la donna picchiata e uccisa perché indossava male il velo. Nel corso degli interventi è stato ribadito l'impegno per l'affermazione dell'autodeterminazione delle donne, della democrazia, dei diritti civili, sociali, economici e culturali universali, fondamentali per la convivenza, il benessere, la sicurezza e la pace. Terrificanti i numeri enunciati nel corso del sit-in dalla rappresentanza delle donne in nero di Udine. Da quando sono iniziate le proteste a seguito della morte di Mahsa Amiri, le forze di sicurezza iraniane hanno ucciso almeno 23 minorenni e ne hanno feriti un numero ancora maggiore. Una presa di posizione netta è stata espressa contro il governo iraniano, che continua a reprimere le manifestazioni. Ma non solo solidarietà al popolo iraniano, ma a tutte le donne perseguitate, oppresse e sfruttate nel mondo. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. 8:49, siamo al calcio, aveva ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere, Sottil, ma ormai la formazione dell'Udinese è decisa. Alle 15 scenderà in campo all'Olimpico di Roma contro la Lazio per una nuova sfida al vertice della Serie A. L'allenatore bianconero conosce bene punti forti e debolezze degli avversari, ha messo a punto una strategia fatta di attenzione in difesa e grande incisività in attacco. Sentiamo la sua analisi nelle dichiarazioni della vigilia. Questa è una partita molto stimolante, un test importante per noi. La Lazio ha un collettivo molto molto competitivo. È chiaro che poi all'interno ci sono dei giocatori leader, giocatori che fanno la differenza. In questo caso parliamo di Milinkovic-Savic, che è assolutamente un centrocampista di grande livello, di grande fisicità, di grande inserimento. E poi davanti hanno Immobile, che secondo me sia per numeri ma anche per modo di giocare è un attaccante moderno, un attaccante che attacca sempre la profondità, sa calciare bene destro e sinistro, quindi i suoi numeri parlano chiaro. Bisognerà stare molto molto concentrati, però io penso che arriveremo molto molto determinati a questa partita, avendo sempre la testa attaccata al corpo. Io lo dico sempre a loro, stiamo molto bene fisicamente, siamo in un gran momento e andiamo a incontrare una squadra, come dicevo, forte, ma consapevoli che anche noi abbiamo le qualità per mettere in difficoltà. Basket in Serie A1, l'Allianz battuta in casa dalla Reyer per 78-95 dopo una partita nella quale i triestini hanno subito il gioco dei veneziani dal principio e la squadra di Legovic ha mostrato insufficienti momenti di reattività e orgoglio per ribaltare la sorte della partita. Si tratta della terza sconfitta consecutiva dei triestini, che in classifica sono ancora a 0 punti. In A2 la Gesteco vince in casa contro il Ravenna 80-70, una partita in cui hanno trainato Muhaha, Nikolic e dialogando in continuazione con l'intera squadra, che ha giocato compatta senza lasciare troppo spazio ai ravennati. A Udine gioca questa sera in trasferta a Chiusi contro l'Umana, palla a 2 alle 18. Doppia vittoria ieri per la pallanuoto Trieste-Barcellona al suo debutto europeo. I ragazzi di Bettini nella mattinata di ieri hanno battuto i turchi di Apollon 8-13 e nel pomeriggio hanno vinto contro il Costice in mondo convincente, 10-29, guadagnandosi il pass per il secondo turno nell'Eurocup, anche se oggi è ancora l'ultima partita del girone. Contenti e non potrebbe essere diversamente, le prime parole di Bettini. Ora pensiamo a Vasutas che si giocherà alle 9:30. Ci teniamo a chiudere bene questo girone, è una di quelle partite che ti fanno crescere. In Serie C la Triestina scende in campo al Rocco contro l'Albino Leffe con coach Pavanella. Al suo debutto sulla panchina della Labarda dice: sono migliore di 3 anni fa, la squadra è buona, giocheremo in verticale, e assicura che in campo daranno emozioni. La partita inizia alle 14:30, il Pordenone gioca domani sera a Mantova. Parte alle 10 da Miramare la Corsa dei Castelli, la gara di 10 km inserita nel calendario nazionale della FIDA, organizzata dalla Pro Run, che porterà i migliori corridori nazionali a fianco di atleti non professionisti a competere sul percorso tecnico che va da Miramare e si conclude in salita al Castello di San Giusto. Tra i testimonial della gara anche l'azzurro Andrew Ho. Correranno sullo stesso tracciato anche numerosissimi iscritti alla non competitiva TEN, la Family Run di 8 km con partenza sempre da Miramare si concluderà invece in Piazza Unità. Quest'anno i fondi raccolti attraverso le donazioni saranno devoluti al pronto soccorso pediatrico del Burlo, con l'obiettivo di rendere meno traumatico il viaggio dei piccoli pazienti attraverso manovre terapeutiche dolorose. Cominciamo la rassegna stampa, cominciamo dal Piccolo di Trieste. Il titolo di apertura riguarda la sanità regionale: calo dei pazienti in fuga per cataratta, ginocchio e anca, diminuita nel 2022 la spesa sostenuta dalla regione per rimborsare trasferte negli ospedali veneti. A fianco una grande foto di Papa Francesco in preghiera, titolo il grido del Papa: fermate la guerra. L'altra fotonotizia ci mostra il canale navigabile dove, dice il quotidiano, nuota da giorni un delfino, decine di persone, si legge nella didascalia, arrivano sulle sponde per osservarlo e fotografarlo. Nel colonnino di cronaca, gang giovanili, nella mappa la banda del Kalashnikov. Promette una relazione a un ipovedente, truffa da 140.000 euro. E poi Trieste, le mille identità di una città definita dalle sue contraddizioni. Infine un virgolettato che dice: riaprite le indagini su una bombere. E l'appello alla procura di un giornalista che chiede di riesaminare i reperti trovati all'epoca degli attentati con nuove tecnologie che al tempo non c'erano. Nell'edizione di Gorizia troviamo una diversa fotonotizia, ritrae il Palabigot, titolo il degrado dell'ex tempio del basket. Le notizie di cronaca: paura al Parco Piuma, 2 persone a terra, ma è un'esercitazione. Donna morta a 53 anni per l'infezione trascurata, medico a processo, detenuti attori in scena nel cortile del carcere diventato palcoscenico, e Cormons conquista l'Olimpo del vino, premiati Biasi e Keber. La preghiera del Papa, fermate la guerra, campeggia sulla prima pagina del Messaggero Veneto. Quindi la notizia delle vittime di una bomber che chiedono di riaprire le indagini, la richiesta di usare le nuove tecniche di investigazione per rianalizzare prove e reperti a 16 anni dall'ultimo attentato. Il Messaggero Veneto mette in prima pagina anche Paderno, perché sono apparsi volantini razzisti con le scritte: non affittate agli immigrati, molti residenti sono indignati. La notizia poi dello scontro di ieri a Pavia di Udine, in cui è rimasta ferita una bimba di 5 anni. E poi la nocività degli insetticidi si guadagna la prima pagina. Il professore dell'Università di Udine, Francesco Nazzi, si appella infatti alla popolazione di non usare gli insetticidi. Possono risultare nocivi per le api anche se i test di laboratorio sostengono il contrario. La ricerca del professore Nazzi sostiene che, oltre ai test di laboratorio sulla nocività degli agrofarmaci, incidono anche altri fattori presenti in natura. Rapidamente il Gazzettino, il titolo di apertura dell'edizione di Pordenone riguarda la sanità. Sanità, anche le eccellenze in appalto, mancano medici, tecnici e infermieri, il direttore affida all'estero il servizio di procreazione medicalmente assistita. Partito Democratico caccia il segretario regionale. poi contro lo spaccio, controlli serrati nelle aree a rischio. La fotonotizia riguarda il caro bollette, ARPA accende i caloriferi 10 giorni dopo e il richiamo al decalogo messo a punto dall'Agenzia per l'Ambiente della Regione per risparmiare. Altro titolo, piccoli e medi negozi falcidiati dalle chiusure, la crisi Cimolai settimana decisiva, Udinese all'Olimpico, Sottil giura non siamo appagati, ricerca sulle api Udine sulla rivista internazionale. Dal Gazzettino di Udine l'apertura è uguale a quella dell'edizione di Pordenone, la fotonotizia è dedicata invece al funerale ad Azzano del giovane Fayer Benedini morto mentre andava a lavorare. Infine, ancora per la cronaca, cade in bicicletta con la mamma, grave un bimbo di 3 anni che ha sbattuto la testa, aveva il caschetto ma ha perso i sensi. È successo a Udine. Termina qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Nada Cioc, in regia per la parte tecnica Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Grazie per averci seguito e ancora una buona domenica a tutti. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.